Eccoci, allora, sei in diretta, ciao, buongiorno, che cosa sta succedendo questa mattina? Buongiorno a tutte e tutti, oggi è un bel giorno per noi, siamo molto contenti perché abbiamo occupato un posto in via Prenestina 44. Intanto iniziamo con dire che invitiamo tutte e tutti a venire al più presto, ci sono cornetti, caffè, quello un po' di tutto, a fare una colazione e abbiamo qui uno striscione con scritto colazione dal basso. E ci potete vedere tranquillamente, siamo qua in via Prenestina 44, abbiamo occupato questo nuovo posto, siamo anarchici ed anarchiche e se volete vi leggiamo un attimo al volo il volantino, tanto sono due righe. Sì. Ok, apriamo spazi di libertà, abbiamo deciso di occupare dei locali abbandonati da anni in via Prenestina 44, abbiamo deciso di aprire uno spazio di libertà. Questa scelta assomiglia più a una scommessa che a un progetto tracciato a tavolino. Ma non c'è nulla da vincere o da perdere, una scommessa intesa come un tentativo. Abbiamo delle idee, qualche proposta e poche certezze. Amiamo la libertà e odiamo le gabbie. Tra sfruttati e sfruttatori siamo dalla parte dei primi. Vogliamo essere artefici delle nostre vite per non doverle svendere per un lavoro di merda. Desideriamo riprenderci e costruire tutto ciò di cui abbiamo realmente bisogno, piuttosto che elemosinare inutilità. Vediamo nello Stato, negli eserciti, nelle polizie degli ostacoli alla possibilità di vivere in comune, accordo tra individui. La nostra ambizione è quindi che tra queste quattro mura si sviluppino rapporti, si scambiano saperi, si coltivino esperienze, che insomma si affilino le lame per difendere la nostra esistenza dalla desolazione e dalla rassegnazione nelle quali siamo abituati a vivere. Assemblee, incontri, dibattiti, brindisi, mangiate, scambi di idee, presentazioni, chiacchierate sono le idee che abbiamo in testa per far rivivere questo vecchio seminterrato. Crediamo possano essere un importante punto di partenza. Non basteranno certo a sovvertire questa società ingiusta, ma non potremo farne a meno. Abbiamo bisogno di incontrarci, abbiamo bisogno di incontrare persone che come noi sentono il peso dell'isolamento in cui vorrebbero relegarci. Abbiamo bisogno di tutto. Per tutto questo ci teniamo ben a distanza da partiti e istituzioni, da fascisti e polizia. Per questo siamo arrabbiati, per questo e per molto altro siamo anarchici e anarchiche. Roma, 2 maggio 2012, i compagni e le compagne di via Prenestina 44. E insomma questo qui era il comunicato e l'abbiamo firmato così perché ancora siamo incerti del nome, quindi un invito a tutti e tutti di venire qua, di discutere proposte e tutto il possibile, anche proposte di nome, così, quindi insomma è aperto davvero a tutti, quindi un caloroso invito a venire a tutte e tutti. Ti ringraziamo per questa prima corrispondenza, immagino che ci risentiremo nel corso della giornata, quindi rinnoviamo l'invito a raggiungere i compagni in via Prenestina 44. E di non andare al lavoro, perché il lavoro è brutto, è una cosa alienante del capitalismo, quindi cioè pisciate il lavoro per oggi e venite qua a via Prenestina 44. Ti ringraziamo. Chi può, ovviamente. Dai forte a tutti. Dai forte. Bacione. Ciao. Bacioni. Ciao.